Con Elisa Coco, una delle curatrici dell'undicesima edizione di Sunprefer Cake al Nuovo Cinema Nosa Della Bologna dal 20 al 22 settembre 2019. Elisa, ben trovata. Ben trovati, ben trovate, un saluto a chi ci ascolta. Raccontiamo intanto cos'è questo festival, raccontiamo insomma la sua essenza e poi come nasce. Sì, Sunprefer Cake è appunto un festival di cinema lesbico che quest'anno arriva alla sua undicesima edizione, quindi è un progetto insomma, che ormai ha una sua storia ed è un progetto che nasce da Lucky Mass, che era un'attivista lesbica femminista, una nostra compagna, che purtroppo è venuta a mancare 3 anni fa, quindi noi abbiamo deciso di proseguire insomma, il lavoro di Lucky e portare avanti questo progetto che è molto sentito all'interno della comunità lesbica di tutta Italia, quindi è anche un momento di ritrovo, di comunità, un momento politico per le lesbiche, le femministe e un po' tutta la comunità che ci ruota intorno. Quell'edizione di quest'anno come si caratterizza? Quante sono le opere presentate? Allora, abbiamo più di 20 film in programma. Quest'anno abbiamo alcuni filoni, diciamo, che attraversano il festival, a partire dal tema della memoria, non a caso, diciamo, siamo nel cinquantennale dei morti di Stonewall, quindi ci sono molti lavori che ripercorrono proprio anche la storia di gruppi, collettivi, di movimenti e noi quest'anno appunto abbiamo deciso di dare spazio a queste produzioni, anche perché come associazione Lucky Mass, che è la realtà che appunto promuove il festival, stiamo lavorando noi stesse sul tema della memoria perché stiamo mettendo a posto l'archivio di Luchi che aveva, come dire, raccolto nella sua vita, nei suoi 30 anni di attivismo, tantissimo materiale e quindi insomma stiamo ripercorrendo un po' le sue carte, le sue foto e quest'anno infatti abbiamo deciso anche nel visual del festival di utilizzare alcune immagini prese dal suo archivio, tra cui abbiamo trovato questo cartello che dà un po' il tema che recita lesbichezza mezza bellezza, che ci aveva fatto molto ridere, era un cartello ripreso durante una manifestazione degli anni 90 e quindi intorno a quello insomma abbiamo costruito un po' la campagna di comunicazione di quest'anno e quindi apriremo proprio con un lavoro che si chiama Invisible Women, che è un documentario, un mediometraggio che racconta 40 anni di lotte femministe e lesbiche di un gruppo di attiviste a Manchester. E la ricostruzione un po' di questa memoria, perché appunto il documentario parte dalla constatazione che negli archivi della città non c'è nessuna traccia delle lotte che erano appunto state realizzate nei 10 anni precedenti e quindi da lì poi si sviluppa un po' una ricostruzione. Quindi abbiamo deciso di aprire proprio con questo film per dare un po' un segnale appunto del filone politico che attraversa diciamo, l'edizione di quest'anno. Insieme a questo, diciamo, nella proiezione di apertura ci sarà anche un documentario dedicato a Marielle Franco, l'attivista brasiliana che appunto è stata uccisa nel marzo del 2018, diciamo raccontata attraverso gli occhi della compagna, che appunto parla del caso dell'omicidio di Marielle, ma anche della lotta che lei e altre compagne stanno continuando a portare avanti, diciamo contro Bolsonaro. Il documentario è stato girato quando Bolsonaro doveva ancora essere eletto e poi purtroppo, come sappiamo, è stato eletto e quindi è un bello spaccato, diciamo, sulla lotta di resistenza che le compagne insomma, femministe cercano di fare in Brasile contro la politica di Bolsonaro. E quindi insomma, questa è un po' l'apertura del festival, e poi durante appunto, lo svolgimento del festival avremo altri lavori che appunto, affrontano il tema della memoria, sia cortometraggi ma anche appunto, dei documentari lungometraggi. Vorrei citarne uno che ho trovato veramente molto, molto bello. Che si chiama The Rest Makeup, che invece ripercorre diciamo, una memoria individuale, che è la memoria di una autrice di teatro, conosciuta per essere stata l'amante di Susan Sontag, però in realtà come dire, ha una sua fama autonoma, che appunto racconta la storia della sua vita in un momento in cui è stato diagnosticato l'Alzheimer, quindi va incontro proprio a un processo di perdita della memoria, quindi è molto come dire, anche commovente. Il film restituisce un bel ritratto appunto di questa personalità molto eccentrica e molto creativa. È previsto anche l'incontro con le autrici dei lavori che presentate? Sì, avremo alcuni incontri, non quanti avremmo voluto, perché purtroppo è un po' difficile, insomma, riuscire a coinvolgere molte autrici che vengono, sono statunitensi, sudamericane, quindi insomma non è stato facile coinvolgerle, però avremo alcune autrici italiane, che per noi è un grande piacere, perché la produzione italiana di solito non è mai particolarmente numerosa, diciamo, all'interno del festival. Invece quest'anno abbiamo diversi lavori, sempre stiamo parlando sempre di documentari, e in particolare vorrei citare Elisa Bozzarelli, che è la regista di un bel documentario che si chiama Mel Maridè, che racconta la storia di un collettivo femminista piacentino negli anni 70, le lotte che queste donne fecero, insomma il gruppo di autocoscienza, e anche la creazione di un consultorio in quel periodo, mi ricordo, la posta era ancora illegale, e le donne si auto-organizzavano per fare gli aborti in sicurezza tramite appunto una rete di autosostegno femminile, e appunto il documentario parla anche di quello, e appunto Elisa sarà una delle nostre ospiti con cui discuteremo. E poi avremo anche due ospiti internazionali che sono rispettivamente l'autrice e la montatrice di un corto che si chiama Just, e la regista è anche la regista di un film che abbiamo dato l'anno scorso, che ha veramente spopolato e piaciuto tantissimo, che si intitola Silvana, ed era un lavoro dedicato appunto a questa famosa rapper svedese. Quindi appunto incontreremo anche loro sabato dopo la proiezione dei corti. Sempre sabato avremo un panel proprio di discussione sul cinema lesbico, quindi ci interroghiamo su che cosa effettivamente sia il cinema lesbico, cosa comprende e cosa non comprenda, e appunto incontreremo le registe, le autrici, insomma, che saranno presenti al festival. Ricordiamo anche in chiusura il senso di questo titolo, Sempre Fair Cake. Sì, Sempre Fair Cake, diciamo, è un titolo un po' ironico, che riprende un film lesbico degli anni 90, che si intitolava proprio così, e appunto rievoca il fatto che alcune amino i dolci, ed è appunto un titolo ironico che ci piace molto, ed è legato un po' alla genesi del festival, perché il festival nasceva proprio come un festival di cortometraggi, e infatti il cortometraggio rimane un genere che ha molto spazio all'interno del nostro festival, infatti sia nella mattina di sabato che nella mattina di domenica riproponiamo questa formula che l'anno scorso era piaciuta molto, dei corti a colazione, quindi si viene al cinema, si fa colazione insieme, poi si entra in sala a vedere corti. Ci lasci i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente, trovate tutto il programma sul nostro sito internet, che è sempreferkakefestival.com, e poi abbiamo anche una pagina Facebook, sempre Sempreferkake, e Instagram, dove stiamo pubblicando, abbiamo già pubblicato tutto il programma, e stiamo pubblicando in questi giorni una serie di approfondimenti, di trailer, di link, insomma, su i film che daremo in programmazione. Undicesima edizione del Sempreferkake Bologna Lesbian Film Festival al Nuovo Cinema Nosadella di Bologna dal 20 al 22 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Elisa Coco. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a presto. Lunga vita al lupo, e grazie mille.